Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, lunedì 26 luglio ed è una giornata abbastanza positiva in borsa, i mercati sono confortati da come sono andati gli stress test per le banche e questo è un tema che approfondiremo soprattutto in merito alla notizia che ci sono 6 banche tedesche che non hanno fornito i dati all'autorità che se ne doveva occupare. Chiariremo un pochino questo aspetto con il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Mercati si diceva positivi, confortati anche dai buoni dati arrivati da Wall Street. Il FTSE All-Share guadagna lo 0,86%, il FTSE MIB quasi un punto percentuale, va bene tutta l'Europa, a dir la verità Milano in questo momento è la migliore e va meglio anche dell'America, dove il Dow Jones guadagna lo 0,45%. Parleremo di questo, parleremo di Fiat, dovremo riuscire a raggiungere tra poco il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni per capire un attimo qual è la posizione del suo sindacato di fronte alla vigilia, a 2 giorni dall'incontro, dal tavolo che si svolgerà a Torino e dopo l'annuncio del forte investimento in Serbia da parte di Fiat. E poi parleremo della Roma Calcio perché alle 18 dovrebbe iniziare un incontro decisivo, un'udienza tra che vedrà protagonista la famiglia Sensi e Unicredit dopo l'accordo stipulato l'8 luglio, insomma si stanno definendo un pochino le ultime cose. Questo è il quadro generale di giornata, i temi che affronteremo, le notizie in breve di oggi. Iniziando come sempre dal petrolio che ha aperto in netto calo oggi a New York, un meno 1,1% a $78,10 al barile. E sempre in tema di petrolio c'è da notare che il consiglio di amministrazione di British Petroleum starebbe discutendo in questi minuti, termine dell'uscita di scena del ormai discusso amministratore delegato Tony Hayward. Al suo posto dovrebbe arrivare il direttore generale Robert Dudley. L'annuncio dovrebbe arrivare a borsa chiusa, borsa londinese chiusa. C'è un nuovo rialzo dell'Euribor a 3 mesi che rivede i massimi da circa un anno e il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali è salito dallo 0,885% allo 0,889%. È il livello più alto dal 31 luglio 2009, quindi da un anno a questa parte. Si diceva dei dati americani positivi, sono le vendite di case nuove negli Stati Uniti che in giugno sono salite del 24% ad un tasso annualizzato di 330.000 unità. I livelli di vendite di case nuove restano comunque ai minimi, quota 330.000, il secondo livello più basso dal 1963, ma il forte aumento registrato, dicono gli analisti, offre barlumi di speranza. E sui mercati questo lo abbiamo visto. Si diceva degli stress test da 6 istituti bancari tedeschi su 14 non hanno indicato la loro esposizione nei confronti dei debiti sovrani in occasione appunto degli stress test. Lo afferma il Financial Times che ha intervistato su questo il segretario generale del CEBS, il Comitato Europeo di Supervisione sulle Banche. Stando a quanto riporta Financial Times, le cosiddette inadempienti sono Deutsche Bank, Deutsche Post Bank, che però viene sottolineato avrebbe rilevato ieri alcune informazioni in proposito, Hypo Real Estate e poi appunto altre 3 banche. A proposito di quotidiani finanziari, c'è un'intervista oggi di Roberto Colaninno al Wall Street Journal, dice a breve lo sbarco della Vespa in Cina, lo dice appunto il presidente della Piaggio, Roberto Colaninno, appunto in un'intervista al Wall Street Journal. Colaninno spiega come l'aumento della domanda di motorini in Asia aiuterà la Piaggio a compensare il rallentamento delle vendite in Europa. Ultima nota, ultima tra le notizie in breve di oggi, è quella che arriva dal mondo della politica, l'avete già sentita nei nostri giornali e radio, sono le parole di Umberto Bossi. Come sapete stiamo discutendo, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, di federalismo fiscale. Dice Bossi, la Lega ha già portato a casa 15 miliardi per i comuni, ma bisogna trovare l'accordo con Tremonti e vedrete che ce la farò. Potrebbero girare nelle casse dei nostri comuni l'IRPEF e anche l'IVA, anche se in questo caso la situazione è più difficile, aggiunge Bossi. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia Fiat. Mercoledì prossimo, tra due giorni, presso la sede della Regione Piemonte a Torino è previsto il tavolo tra governo, azienda e sindacati per discutere sul futuro dello stabilimento di Mirafiori. La settimana scorsa Fiat ha annunciato l'intenzione di produrre la monovolume, che per il momento va sotto il nome in codice di L0, in Serbia, vettura originariamente destinata a Mirafiori stessa. Lo stabilimento serbo è nato nel dicembre 2009 sulle ceneri della fabbrica Zastava e controllato da una joint venture tra Fiat al 67% e lo Stato serbo al 33%. Con la nuova produzione verranno impiegati circa 2600 operai. Il lingotto riceverà consistenti aiuti dal governo e non pagherà tasse per 10 anni. E allora saluto Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Bonanni. Buonasera. Allora, prima di tutto, poi entreremo un pochino più nel dettaglio di quel che riguarda l'accordo di Pomigliano e poi a catena naturalmente tutto il resto, insomma gli effetti di questa mancata firma della FIOM sull'accordo di Pomigliano. Innanzitutto un giudizio su questa vicenda dei Mirafiori. Ma un giudizio, la Fiat sposta produzioni della monovolume in Serbia e succede il finimondo perché si lascia intendere che questo chiude Mirafiori e francamente lo capiremo dopodomani, ma non mi pare che sia questo, insomma. Però vedo che da un mese più in Italia una buona parte delle realtà anche mediatiche tendono a gonfiare un pallone che non corrisponde alla realtà davvero. E devo dire la verità, certe volte diventa anche simpatico capire come si possa allontanare dalla realtà. In certi casi diventa anche triste perché viviamo in crisi e in effetti creare problemi più di quelli che abbiamo non serve. Perché dico questo? Dico che la monovolume per un'azienda, spostare una produzione per un'azienda internazionalizzata può essere anche normale, se per esempio a Torino si conferma che c'è per Torino una produzione, io spero perfino più remunerativa, insomma più prestigiosa, perché è normale che un'azienda internazionalizzata distribuisca nei propri uffici, nei propri siti prodotti. La Fiat si sa, ha una fabbrica a Belo Horizonte che produce davvero milioni di macchine, ce l'ha pure a Detroit, ce l'ha in Polonia, ce l'ha in Turchia, ce l'ha in Serbia, ce l'ha in Italia, c'ha molti punti dove produce appunto automobili. È chiaro che un disegno di rilancio delle produzioni, e vuole rilanciare le produzioni, rinfrancata anche dall'accordo con la Chrysler e così via, si pone il problema di aumentare la produzione e distribuire le produzioni. In Italia il disegno è arrivare a 1.400.000 di fronte ai 600.000 che oggi ha, che è il punto che noi dopodomani vorremmo che si chiarisse, tant'è la prima domanda che mi sento di fare a Marchionne è: si costruiranno ancora 1.400.000 autoveicoli in Italia? Cioè lei teme, Bonanni, mi scusi, lei teme che sia in discussione, dopo la vicenda di Pomigliano, l'intero progetto che è stato chiamato Fabbrica Italia? No, io non temo niente, io dico che dopo tutta questa confusione che c'è stata sulla vicenda della Fiat di Pomigliano, che mi ha ricordato molto la questione all'Italia. Devo dire la verità, in queste giornate io ho collegato la vicenda della Fiat a quella dell'Italia. Anche lì ci furono un sacco di discussioni, non sempre opportune. Fatto sta che 2 anni dopo nessuno più parla di quella vicenda, per esempio che la Air France ha licenziato 10-12 giorni fa 4.000 persone, nessuno neanche l'ha scritto, perché gli stessi magari che 2 anni fa ci hanno criticato moltissimo per la linea di responsabilità e ci hanno detto che addirittura stavamo facendo fallire un disegno che era l'unico, quello di andare con i francesi. Ho rivisto la stessa cosa con la Fiat, con Pomigliano, però sta diventando un po' pesante, perché questo clima così, in una questione così complicata come quella che abbiamo dovuto affrontare, stende i nervi di tutti e possono venire anche brutti scherzi, tant'è che secondo me questo nervosismo eccessivo che c'è stato ha spinto anche la Fiat a avere dei comportamenti secondo me che si poteva risparmiare. In tutta questa discussione, per esempio, in più fabbriche dove c'è chi alimenta una conflittualità senza fine. Comunque, dopodomani noi chiederemo quanti sono gli autoveicoli. Chiarito questo da parte della Fiat, e io spero che lo chiarisca davvero, significa appunto quello che dico io, che un'azienda internazionale deve distribuire appunto i prodotti. Detto che saranno 1.400.000 veicoli, ci deve dire quali prodotti per arrivare a questi 1.400.000 veicoli e quali prodotti e per quali siti industriali. Ed è l'unico modo per chiarirci fino in fondo e per iniziare un qualcosa a cui noi teniamo molto, perché la nostra opinione è che i diritti di cui si parla ci sono solamente alla condizione che le fabbriche siano in piedi. Non esistono i diritti senza che un'attività produttiva vada avanti, ed ecco perché noi siamo a sostegno di attività produttive ancora di più in un momento di grande crisi, dove ogni giorno per 2 anni che lo facciamo siamo costretti a rincorrere multinazionali e aziende italiane che vogliono delocalizzare. Abbiamo salvato davvero decine e decine di migliaia di posti di lavoro a uno pur di superare questa discussione e questa difficoltà che per la verità ci sta mettendo a dura prova. Quindi 2 sono le questioni: quanti gli autoveicoli, quali prodotti per quale fabbrica, e così la chiariamo e vediamo anche costoro che fino adesso ci hanno creato tanti problemi anche nel sindacato, se al posto di cincischiare saranno disposti, spero per esempio, a collaborare pur di mantenere le produzioni in Italia e così di mantenere anche un sistema di diritti che c'è, insisto, solo se c'è una fabbrica che funziona. Quando parla di comportamenti della Fiat, anche in reazione al clima che si è generato, che non le sono piaciuti, si riferisce immagino ai licenziamenti delle ultime settimane. Troppa enfasi a questa storia. Può succedere che ci possano essere anche errori, non solo delle aziende, anche dei lavoratori. Quando ci sono questi fatti, ci sono i sistemi per chiarirli. O attraverso una discussione pacata, se si ha ragione lo si può dire pure. E invece vedo che ogni volta si esaltano gli animi e si arriva sempre alle estreme conseguenze con molta facilità. Questo non ci piace. E non ci piace anche qualche appunto valutazione di troppo che la Fiat sta facendo in questi giorni. Farebbe bene avere i nervi a posto, come stiamo cercando di averli anche noi. Si sta concentrando l'attenzione in queste ore sull'altra ipotesi alla quale forse nemmeno Fiat pensava di arrivare, ossia il fatto che, dato che viene considerato l'accordo di Pomigliano non facilmente praticabile, anche in forza del voto non particolarmente favorevole che c'è stato al referendum, anche se comunque in favore dell'accordo, l'ipotesi che si crei una nuova compagnia, insomma che vengano licenziati e riassunti tutti gli operai in questa nuova compagnia, e sarà la nuova compagnia che farà funzionare lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco. In questa ipotesi ci sta anche quella che Fiat disdica il contratto nazionale dei metalmeccanici. Mi sembra che su questo fronte lei sia stato molto netto, Bonanni. Ma intanto il risultato di Pomigliano è davvero straordinario, proprio per il numero dei voti. E mai nella storia delle relazioni industriali, quando ci siamo trovati di fronte a decisioni su temi così delicati, nessuno mi potrà smentire, mai un referendum ci ha consentito di passare su temi di così grande pregnanza. Per la prima volta su temi così delicati i lavoratori ci hanno dato il consenso e in misura molto alta. Poi che chi ha perso ha voluto dimostrare che ha vinto in una posizione goffa che solo realtà antinazionali possono aver raccolto pur di far vivere le loro convinzioni, questa è un'altra discussione, ma mai era accaduto che su quei temi si potesse vincere di grande misura un referendum così, così importante. Quindi io dico che è successo esattamente il contrario di ciò che hanno detto. E la faziosità è anche il ricorso all'iperbole. Si sa, molti per la verità fanno diventare la notizia un fatto, mai il fatto la notizia, e questo è notorio. E la vicenda di Pomigliano, ci tengo a dirlo, appartiene appunto a questa categoria. Ripeto, alcuni hanno fatto vivere una sconfitta addirittura in una mezza vittoria, ed è incredibile che sia successo. Detto questo, io penso che sulla New non ci sono particolari problemi, perché chi sa e chi conosce la natura delle aziende Fiat in Italia, le ragioni sociali delle aziende Fiat in Italia, sa che su 8 siti, un 4 almeno, 4 o 5, hanno natura diversa tra di loro. Quindi non c'è nessun problema, soprattutto se ad assumere saranno tutti i lavoratori, nessuno escluso, di quelli che già erano impegnati nella vecchia società, quindi non abbiamo particolari problemi su questo. Se si volesse cambiare il contratto o si volesse addirittura disdettare il contratto, noi saremmo costretti appunto a mostrare tutto il nostro dissenso, perché non siamo d'accordo. Perché non capiremmo appunto questa esigenza, qual è, dopo aver fatto un lavoro davvero importante nell'aver definito il nuovo contratto nazionale, per quale motivo lo dovremmo disdettare, non saremmo d'accordo. Se lo facesse la Fiat sbaglierebbe notevolmente, sarebbe sleale nei nostri confronti, ma comunque noi non ci rassegneremo, perché i contratti si disdettano insieme, come si fanno insieme due soggetti, si disdettano insieme. Non è nostra intenzione, io parlo per la CISL, disdettare quel contratto. Se ci sono problemi particolari da chiarire, siamo disposti a farlo come si fa tra contraenti di accordi, ma sentirlo a mezzo stampa che sia intenzione di modificare, addirittura di disdettare un contratto, non ci fa molto piacere. E nel caso Fiat decidesse di procedere, fareste saltare il banco, diciamo così? L'ho detto. Saremo in disaccordo, anche in disaccordo molto forte, non abbiamo nessun problema su questo. Noi stessi che abbiamo favorito, per la ragione che dicevo inizialmente, ogni possibilità che l'investimento ci sia, perché noi riteniamo che il sistema di diritti c'è se funziona la fabbrica, siccome la disdetta del contratto eventuale sarebbe un'iniziativa gratuita e anche sleale, non ne capiamo la ragione, per la verità, e pertanto non saremo in nessun modo d'accordo. Ma io spero che la Fiat non aprirà una discussione di questo tipo. Ultima domanda, Bonanni, quindi a questo punto la vostra proposta, cioè nel caso di una creazione di una new co, la possibilità è di andare avanti con qualche deroga sul contratto attuale e poi probabilmente farne uno nuovo nel 2012, quando scade, suppongo. Tutte le modifiche devono avere sempre una ragione comprensibile e che vede i soggetti riconoscere la esigenza appunto di modificare quel dato punto, quella data norma e così via. Quindi, ma su questo, ripeto, è la normalità. Altra storia è quella di dettare il sistema contrattuale. E adesso veramente l'ultima domanda, è quella che ci arriva da un ascoltatore, il quale dice: ma perché nella New Co non si può favorire eventualmente l'entrata nell'azionariato dei lavoratori di Pomigliano? Lei come la vede, Bonanni? Mi sembra che sia il suo sindacato sia favorevole a queste forme di partecipazione, no? Ah, io sono d'accordissimo, anzi, devo dire la verità, è la vera prospettiva per il lavoro italiano è il lavoro dei paesi avanzati. Infatti noi siamo obbligati, abbiamo una scelta obbligata nel produrre prodotti di grande qualità per mantenerci, per mantenere il nostro benessere. L'unica possibilità che abbiamo è che riusciamo a fare in questo caso motori di alto livello, che riusciamo a fare design di alto livello, riusciamo a fare prodotti assolutamente fortemente remunerativi. Per fare questo non c'è bisogno di una fabbrica caserma, di un posto dove c'è chi comanda e chi esegue basta e Mosca. Questa cosa non può esistere. Esiste un posto dove i lavoratori collaborano con l'impresa, l'impresa collabora con i lavoratori, un posto dove si possa partecipare ognuno mettendo a disposizione la propria esperienza, la propria professionalità e possa nello stesso tempo a quel punto costruire la propria personalità e la propria dignità. Ecco perché per esempio l'azionariato collettivo, la partecipazione alle decisioni è l'unica scelta possibile per paesi che devono competere con altri paesi che costano molto di meno perché non c'è democrazia, non ci sono prestazioni sociali, i contratti sono più bassi di quelli che abbiamo noi, i salari sono più bassi di quelli che abbiamo noi. L'unica possibilità, ripeto, è la qualità, ma la qualità si produce con un lavoratore che è soddisfatto di quello che fa ed è consapevole di quello che fa. Per essere soddisfatto e consapevole deve poter concorrere a decidere le scelte d'impresa, ma anche a dividersi il frutto qualora l'azienda appunto guadagni di più di prima. Quindi io sono d'accordissimo su questo e non a caso che da anni portiamo avanti questa battaglia, che anche in Parlamento abbiamo stimolato praticamente rappresentanti di tutte le forze politiche che hanno presentato disegni di legge in questo senso, proprio perché riteniamo che la frontiera vera è proprio una più avanzata partecipazione alle scelte dei lavoratori nell'azienda e alla divisione del frutto della maggiore produttività e capacità competitiva. Brevissimamente, che siamo in chiusura, lo proporrà a Marchionne? Dovrebbe essere pure facile proporlo a lui, perché lui ha trattato con i lavoratori di Detroit che avevano già in precedenza forme partecipative e l'hanno rafforzate allorquando, di fronte alla scelta di fare sacrifici pur di mantenere in piedi la Chrysler, hanno barattato giustamente con l'azienda sacrifici in più, però anche quote partecipative aziendali e quote di potere aziendale più forte di prima. Grazie dunque a Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera. Questo dunque l'aggiornamento di oggi su Fiat, il tutto naturalmente in attesa di mercoledì. Noi ci ritroviamo tra un attimo, subito dopo la pausa parleremo di mercati, ma subito prima in realtà faremo il punto sugli stress test, in particolare quelli che riguardano le banche tedesche. A tra poco. E veniamo al prossimo tema, tra un attimo andremo sui mercati. Intanto vi dico che la chiusura è positiva, il FTSE MIB chiude con un rialzo dell'1,05%, il FTSE All Share dello 0,96%, bene anche il resto d'Europa, veramente pochi titoli negativi oggi sul FTSE MIB, su tutti ST Microelectronics che cede l'1,86%, mentre molto bene hanno fatto le banche, il Banco Popolare più 4,36%, Intesa San Paolo più 4,06%, solo per darvi le prime due. Ma veniamo al primo tema, che sono proprio le banche. perché a muovere i mercati sono stati proprio i risultati degli stress test. Che cosa sono gli stress test? Sono delle simulazioni di uno scenario di crisi e vanno a misurare il patrimonio di base tra 91 grandi europee, grandi banche europee, proprio per capire come reggerebbero in uno scenario di crisi. Scenario di crisi che si è ipotizzato, tra l'altro, con un calo del PIL del 2,1%. Ma quello che vogliamo approfondire adesso, visto che i dati su quelle europee ve li abbiamo ampiamente forniti da venerdì sera, su quelle italiane, scusate, da venerdì sera al fine settimana, poi tra poco andremo a vedere come si sono comportate nel complesso in borsa, è il tema delle banche tedesche. Saluto Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Beda. Buonasera. Allora, aiutaci a capire perché mai, notizia che abbiamo preso oggi dal Financial Times, ma che viene da fonte ufficiale, insomma, perché è il segretario generale del Comitato Europeo del Controllo Bancario, insomma, quindi è un'intervista con quest'uomo che ci ha chiarito che 6 banche tedesche in sostanza non hanno fornito i dati e non ci sono proprio spiccioletti là, perché c'è anche Deutsche Bank. Che cosa succede, Beda? Allora, le banche tedesche che sono state oggetto di questo stress test erano 14 e secondo questa intervista al Comitato Europeo che raggruppa le autorità di vigilanza a livello europeo, l'idea era che ciascuna banca avrebbe pubblicato il risultato dello stress test e in aggiunta al risultato anche la propria esposizione nei confronti dei debiti sovrani dei paesi dell'Unione. Allora, tutti lo hanno fatto, tutte le banche lo hanno fatto in tutti i paesi, salvo in Germania, dove 6 banche non hanno pubblicato questi dati, che erano dati in appendice ai risultati finali dello stress test, ma l'accordo europeo prevedeva che le banche pubblicassero anche questi dati. Allora, tra queste 6 banche c'è Deutsche Bank, che proprio oggi, anche in parte sulla pressione dei mercati, ha deciso che pubblicherà questi dati domani, quando sono attesi i risultati del secondo trimestre. Allora, perché le banche non hanno pubblicato questi dati? È sempre un po' fastidioso fare il processo alle intenzioni, ma possiamo supporre che la Germania in tutta questa vicenda non è mai stata molto, molto chiara e molto trasparente. Bisogna sapere che la Germania all'inizio non voleva fare questi stress test bancari, era contraria a questa operazione e ha tentato di opporsi fino all'ultimo momento. Poi finalmente, sotto la pressione dei mercati, degli altri paesi europei e direi soprattutto degli investitori americani e asiatici, ha dovuto abbandonare la partita e ha accettato di farli. C'è una norma che in Germania permette alle banche di non pubblicare questi dati, quindi il governo non ha l'obbligo di imporre alle banche la pubblicazione di questi dati e evidentemente le banche si sono nascoste dietro questa legge. Difficile dire per quale motivo le banche tedesche non abbiano voluto pubblicare questi dati, l'impatto non è particolarmente felice, perché naturalmente gli analisti finanziari hanno subito preso di mira queste banche e a questo punto credono che queste banche vogliono nascondere qualcosa. Non è chiaro, francamente. Sapremo di più domani, quando Deutsche Bank, che è la banca più grande in Germania e la banca più grande in Europa, pubblicherà questi dati. Bene, io ti ringrazio Beda per questo aggiornamento e per questo chiarimento. Adesso vedremo che cosa succederà. Adesso passiamo tra un attimo passiamo ai mercati. Grazie intanto a Beda Romano, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Buonasera Beda. Arrivederci. Giusto per riassumere, I cinque maggiori istituti italiani oggetto dell'operazione erano Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, Banco Popolare, UbiBank. Mostrano un indice di patrimonio Tier 1. Adesso non stiamo qua a spiegarvi, però, insomma, perché sarebbe molto complicato. Insomma, ci sono in mezzo anche un tot di formule matematiche. È comunque un indice ponderato che calcola in sostanza la solidità patrimoniale di una banca. È stato quello che è stato scelto. Tutti superiori all'asticella del 6% fissata dall'organismo europeo, Intesa San Paolo la migliore all'8,2%, Unicredit al 7,8%, il Banco Popolare al 7%, UbiBank al 6,8% e MPS al 6,2%. Dalla Banca d'Italia è stato detto che gli stress test sono un contributo importante nel rafforzare la fiducia del sistema bancario del vecchio continente, si dimostra la robustezza e la solidità del sistema finanziario globale e anche di quello italiano, e però si invitano le banche a continuare nel rafforzamento del capitale, così come dal Tesoro si esprime soddisfazione e si dice siamo pronti a emissioni di nuovi Tremonti Bond. E adesso i mercati. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partiamo proprio da qua, partiamo dalle banche, ottimamente direi, soprattutto il Banco Popolare Intesa San Paolo, come si diceva prima, più 4,36% e più 4,06% rispettivamente. Sì, esatto, il Banco Popolare si è messo in evidenza in verità sin dalle prime battute di questa mattina e per tutta la seduta ha vantato la miglior performance tra le azioni delle società a maggiore capitalizzazione. In verità, nelle scorse settimane si era diffusa la convinzione che il Banco Popolare avesse parametri appena adeguati per superare gli stress test e fosse quindi di poco superiore alla sufficienza. In verità, come hai già ricordato tu, il Tier 1 è stato pari al 7% e quindi ha stupito un po' gli analisti che si aspettavano un risultato peggiore. Ecco perché appunto sono state fatte queste, cioè si è messo così in evidenza. Comunque, tra l'altro, c'è anche un'intervista nel numero 1 dell'istituto Saviotti che ha detto di sentirsi assolutamente tranquillo sui fondamentali della banca e inoltre rammentato che comunque saranno fatte una serie di azioni come ad esempio la cessione di asset considerati non appunto strategici per migliorare ulteriormente i fondamentali dell'istituto. Sì, bene, complessivamente tutte le banche, anche quelle che agli stress test non hanno partecipato, come la Popolare di Milano che chiude con un rialzo del 2,42%, bene il Monte dei Paschi più 1,72%, lievemente peggio se non erro Unicredit, Eleonora? Sì, lievemente peggio, forse perché la banca è esposta in Germania, d'altra parte comunque il risultato più 0,37% per essere esatti, e mezzo punto percentuale di guadagno per UbiBank. Comunque i risultati agli stress test sono stati superati da Unicredit brillantemente, anzi ricordiamo che Unicredit e Intesa sono state le banche che hanno vantato i migliori risultati. Intesa infatti è stata premiata come prima della classe con questo rialzo del 4%. Unicredit comunque aveva fatto molto bene nelle scorse settimane, forse per questo è rimasta un po' più in ombra. Del resto ha riconquistato la quota dei 2 euro, si è attestata sul finale a 2,04 euro. Ci chiede un ascoltatore, e passiamo ai titoli negativi, visto che poco fa abbiamo detto che la peggiore sul FTSE MIB è stata ST Microelectronics, ci chiede perché continua il massacro su ST. Sono ancora i conti, che in realtà erano positivi ma non aveva convinto, mi pare, la joint venture con Ericsson, no? Esatto, infatti era stata proprio la joint venture con Ericsson, catalizzare i dubbi degli analisti e anche del mercato. Ricordiamo che ha segnato una perdita operativa di 137 milioni di dollari contro il rosso di 127 milioni dell'anno precedente. Poi comunque anche i dati sui margini sono stati giudicati un po' deludenti, nel senso che il mercato probabilmente si aspettava qualcosa in più, qualcosa di meglio. D'altra parte i dati sono stati assolutamente buoni. Ricordiamo infatti che nel secondo trimestre ST ha archiviato un utile netto di 356 milioni di dollari, cosa ben diversa dalla perdita di 318 milioni dello stesso periodo del 2009. Eleonora, brevemente, Eni e Terna. Sì, Terna oggi ha dato i conti del secondo trimestre, i titoli sono stati premiati con questo progresso dello 0,6%, i conti sono risultati abbastanza in linea con le attese e soprattutto ci è piaciuto al mercato il fatto che il numero uno della società Cattaneo abbia promesso una politica di dividendi in crescita nei prossimi anni. E per quanto riguarda Eni invece grande attesa per la trimestrale, la volta di Eni sarà mercoledì, intanto i titoli hanno guadagnato lo 0,9%. E poi Fiat, ne abbiamo parlato tanto all'inizio, oggi in borsa positiva anche se un po' deboluccia, più 0,46%, del resto ha corso parecchio la settimana scorsa. Sì, proprio così, infatti i titoli di Fiat hanno guadagnato quasi mezzo punto percentuale ma riscattandosi sul finale, sono stati deboli per gran parte della seduta, dopo la corsa della scorsa settimana diciamo hanno ripreso un po' fiato, ci sono stati un po' di realizzi e poi c'è stato anche qualche analista, qualche casa d'affari che ha insinuato il dubbio che ad esempio la domanda in generale del comparto auto possa essere debole nei prossimi anni sia in Europa sia negli Stati Uniti e nel Nord America, appunto i territori dove è esposta Fiat. Ebbene, Luxottica stanno diffondendo i conti in questo momento, mi sembra, Eleonora. Esatto, poi a breve i conti che verranno spiegati dai vertici della società nel corso di una conference call che sta per iniziare. Adesso poco fa la società ha comunicato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile in rialzo addirittura del 30% a 150 milioni di euro. Nell'attesa dei conti che comunque sono stati diffusi, ricordiamo, a borsa chiusa, le azioni si sono mosse abbastanza a rialzo per tutta la seduta, poi sul finale hanno accelerato mettendo a segno questo più 2% e riconquistando la soglia dei 20 euro, hanno chiuso a 20,6 euro. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi del Sole 24 Ore Radio Core e questa sera di Eleonora Micheli. Eleonora, buonasera. Buonasera a tutti. Adesso diamo la linea alla viabilità, poi ci ritroviamo subito dopo, vedremo un quadro finale anche degli altri titoli e poi parleremo della Roma Calcio. Allora, giusto un quadro finale di questa giornata. Delle banche si è detto, da aggiungere, che molto bene ha fatto Lottomatica con un guadagno di oltre 3 punti percentuali, Mediaset un più 2,81%, Italcementi un più 2,24%, Luxottica si è detto appunto 2 punti percentuali, e più di un punto e mezzo percentuale di guadagno tanto per Mediobanca quanto per Atlantia, Unipol più 1,36%, bene Mediolanum più 1,21%, appena sopra lo 0,90%, Prismian, Eni, Pirelli e Snam Rete Gas, e appena sotto Campari e Generali. Enel chiude con un guadagno dello 0,82%, CIR dello 0,76%, Terna dello 0,64%, in pregio dello 0,62%, di circa mezzo punto percentuale Azimut, Finmeccanica, Ubibanca e Fiat, della quale si è detto, dello 0,4%, Saipem, Buzzi, Unicem, Unicredit dello 0,37%, Telecom Italia dello 0,36%, A2A dello 0,17%, perfetto pareggio per Geox, Exor e Tenaris, Ansaldo in calo dello 0,17%, Autogrill dello 0,39%, Parmalat dello 0,47%, Bulgari dello 0,69%, Fondiaria dello 0,71%, e DST si è detto meno 1,86%, mentre l'euro quota a 1,2976 contro dollaro. E siamo all'ultimo tema di questa giornata, parliamo della Roma Calcio che per inciso oggi in borsa ha ceduto lo 0,05%. Tra poco, più o meno all'ora nella quale finisce questa trasmissione, Unicredit e i Sensi si incontreranno nuovamente davanti al collegio arbitrale presieduto da Cesare Ruperto, che deve pronunciarsi sulla situazione debitoria della società sportiva. La Roma, controllata al 67% dalla Italpetroli dei Sensi, ha debiti verso Unicredit Capitalia. Italpetroli ha debiti verso Unicredit Capitalia per 325 milioni di euro. Saluto Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, allora, lo scorso 8 luglio era stata annunciata un'intesa di massima, lo ricorderete, è stata anche raccontata sui giornali dopo un incontro fiume appunto tra la famiglia Sensi e Unicredit, iniziato la mattina e finito dopo le 10 di sera. In base all'intesa, Unicredit dovrebbe rilevare il 51% di Italpetroli attualmente in mano ai Sensi, ne diventerebbe l'azionista unico, estinguendo così i debiti della famiglia, la quale resterebbe qualche immobile. Gianni, invece, per quanto riguarda la squadra, l'ipotesi naturalmente è di una vendita. Questo è l'obiettivo previsto nell'accordo, la lettera di intenti firmata l'8 luglio. E naturalmente, per arrivare a questo, diciamo, a questa procedura di vendita ci vuole tempo. Sembrava che le cose potessero partire rapidamente, in realtà Rosella Sensi continua, d'accordo con Unicredit, a gestire la Roma e probabilmente lo farà ancora per molto tempo, perché intanto questo accordo, ammesso che questa sera riescano a perfezionarlo, sono già un po' fuori dai tempi che si erano dati, richiederà poi un po' di tempo per essere attuato, quindi è difficile che prima di settembre in ogni caso le cose possano decollare. Le prime proposte di interesse sembrano piuttosto basse nel prezzo, si parla di un forte interesse del gruppo Angelucci, attivo nella sanità immobili a regionali a Roma, peraltro cliente di Unicredit, quindi probabilmente perché ci sia un compratore bisognerà aspettare credo parecchio. Certo, è difficile trovarlo questo compratore, perché insomma le condizioni della società calcistica non sono proprio ottime. Beh, la società da tempo ha cercato di contenere e è in parte riuscita a contenere i costi, gli ingaggi dei calciatori, tuttavia gli ingaggi sono ancora piuttosto alti, che sono la voce principale di costo. Il fatturato nell'esercizio appena terminato è diminuito anche perché non ha partecipato alla Champions League, quindi la Roma ha un patrimonio che si sta riducendo, il patrimonio consolidato è ridotto ad appena 6 milioni di euro al 31 marzo, l'ultimo dato contabile conosciuto, il bilancio dell'esercizio terminato il 30 giugno sarà in rosso, un passivo ancora non conosciuto, ma potrebbe essere anche 10 milioni di euro, non una cifra clamorosa, ma quanto basta per assottigliare ancora di più questo patrimonio. Quindi con l'esigenza di affrontare anche la Champions League, benché aumenti nei ricavi da questa competizione, la società dovrà anche pagare i premi per il secondo posto nell'ultimo campionato, quindi la Roma è in arretrato nel pagare gli stipendi ai calciatori, ha pagato intorno alla metà di maggio, ha saldato lo stipendio di gennaio, quindi ci sono almeno 3 mesi di ritardo, questo dimostra che c'è una tensione finanziaria, cioè la Roma fa fatica ad arrivare a fine mese, quindi chi la compra dovrebbe o ricapitalizzarla, in ogni caso se intende rimanere ad un buon livello competitivo, altrimenti dovrebbe vendere dei calciatori, quello che i tifosi non vogliono. Naturalmente, è quello che veramente i tifosi temono, naturalmente. Sul fronte invece della controllante della Roma, Italpetroli, Gianni, naturalmente al momento Unicredit rileva Italpetroli, ma nemmeno quella se la vuole tenere, naturalmente. Di solito le banche, quando hanno un debitore che non paga, come è il caso di Italpetroli, cercano di aggredire, impossessarsi del patrimonio, ed è quello che stanno facendo con un accordo, comunque con una procedura piuttosto laboriosa, per poi ricollocarlo sul mercato. Quindi se Unicredit attualmente dà un valore a questi immobili e a queste attività imprenditoriali, depositi petroliferi, in particolare Civitavecchia, che sono della famiglia Sensi, dovrà poi cercare di ricollocarle, di venderle. Non sarà facile neanche questo, ma non è da escludere poi che in questi tentativi si incrocino operazioni di compravendita con personaggi, gruppi che sono clienti della banca, per cui non si sa poi i soldi che utilizzano, se sono loro o se sono in prestito dalla banca. Un esempio, la famiglia Angelucci, a cui viene attribuito un forte interesse per la Roma, non hanno smentito, è plausibile che ci sia, è comunque un cliente della banca, quindi potrebbe essere che queste operazioni vengano fatte anche con i soldi in prestito dalla banca, per cui non si sa mai bene chi è che è veramente il proprietario o se invece resta tutto alla banca e cambiano solo i nomi sul cartellino. Un paio di messaggi degli ascoltatori, all'ascoltatore che ci chiede di parlare del Milan, diciamo che non ne parliamo per il semplice fatto che non è quotato in borsa, e ci dice invece un altro ascoltatore, Gianni, dice: Viaggi del Ventaglio è stata fatta fallire con la metà dei debiti, insomma, un po' come dire, forse doveva fallire pure Italpetroli. Diciamo che la richiesta di fallimento è competenza di chi è creditore, evidentemente in questo caso il creditore è stato più paziente, oppure come penso, visto anche il peso politico che ha l'essere proprietari di una società di calcio, soprattutto delle dimensioni della Roma, e questo può aver influito sul far pazientare la banca, anche se il capo della banca è un interista, Alessandro Profumo, quindi credo che come tale non si farebbe scrupoli particolari. Va bene, che diciamo in un certo grado di follia della tifoseria italiana è stato visto anche quello come un problema, no? Qualcuno diceva: oddio, la squadra finisce nelle mani di un interista. Per carità, insomma, i banchieri fanno affari. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore e buonasera. Buonasera. Questo dunque il quadro della giornata di oggi, è tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione. Ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto, una buona serata e ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.